azt játszó blues, ez tud te jól nagyságandá. Meg ez aztán te szintem a momenté majd fúgá. Szorabon kárászó, kéne la vita szólnára. Meg ide ne komplászán un nebo. Me va piaccio zucchero, cascini do caffè. E una presa ranna so ma chi è meglio me. Se cagazzi me faccio tutto quello che mi va. Perché so blues e non voglio cagnare. A voce resto ma e a pazienza su punta. A cento cagami mi è sabbia per sbraità. Ti vengo presa a te. Nada en casa y con sonida, nira. Ma non da pasa la sa. A me ma piace chi la faccio senza sofferma. Che tuo stempo sarà bobo che sa bagatara. Hai zona c'è chiù, ma non ti fa bruia. E dalla faccia senza.